Pensa ad una cosa di cui ti vergogni profondamente e chiediti: saresti disposto a salire su un palco per parlare di questa cosa, per raccontarla ad altre persone? Credo di no. E il motivo è abbastanza chiaro: perché te ne vergogni. Ma che cos'è la vergogna? Ne ha parlato Brené Brown in un famosissimo e toccante intervento TED. Ti lascio il link in descrizione, intitolato Il potere della vulnerabilità. Brené Brown afferma che la vergogna è la paura di sentirsi disconnessi dagli altri, ovvero il timore che se le persone sapessero quella cosa di cui ci vergogniamo, si allontanerebbero da noi. E noi sentiamo che se conoscessero quella cosa non ci meriteremmo più l'amore, l'appartenenza, la vicinanza, l'affetto di quelle persone. Il concetto di vergogna può essere legato a un comportamento oppure ad un aspetto particolare del nostro carattere, per cui pensiamo: visto che ho fatto quella cosa, visto che sono fatto così, allora non merito l'amore e la stima degli altri. O ancor più frequentemente c'è una frase che vaga nella nostra testa: non valgo abbastanza, non sono abbastanza bello, magro, ricco, intelligente, interessante, non sono abbastanza. Quando nella nostra testa girano in continuazione pensieri di questo tipo, capite bene come sia difficile poi pensare di meritarsi l'amore, la vicinanza, l'appartenenza agli altri. Ecco quindi il ragionamento che si sviluppa nella nostra testa: se sono ad un certo modo, merito l'amore degli altri. E all'opposto, io non sono ad un certo modo e quindi non merito l'amore, l'appartenenza, l'affetto, la stima degli altri. Proseguendo nella sua ricerca, la Brown però si è resa conto di una cosa incredibile: le persone che mostravano di meritarsi l'appartenenza e l'amore degli altri non erano persone che si ritenevano perfette, semplicemente erano persone che sentivano di meritare l'amore, l'affetto, l'appartenenza degli altri. In altre parole, chi ha un forte senso di amore e di appartenenza ce l'ha a prescindere dal fatto di sentirsi perfetto. Ed ecco infine un'ultima incredibile scoperta: le persone che sentivano di meritarsi l'amore e l'appartenenza degli altri erano persone che avevano il coraggio di sentirsi imperfette. Riuscivano a trattare prima di tutto se stessi con amore e gentilezza, senza aver paura della propria imperfezione, e di conseguenza riuscivano anche a trattare le altre persone con amore e gentilezza, a prescindere dalla loro imperfezione. Del resto è quello che ci dice anche Gesù, no? Non puoi amare gli altri se non riesci prima ad amare te stesso. Che cosa ci fa capire allora questa ricerca? Che l'amore verso noi stessi non può provenire dal sentirci perfetti. Anzi, se l'amore proviene da un senso di perfezione, forse non è neppure amore vero, perché sarebbe un amore condizionato. L'amore è vero quando è gratuito, quando è libero, quando è incondizionato, sia l'amore verso gli altri, sia l'amore verso se stessi. Non dobbiamo aspettare di essere perfetti per iniziare ad amarci, anche perché probabilmente se così fosse non ci ameremmo mai, ma dobbiamo scegliere oggi di abbracciare noi stessi, di abbracciare anche la nostra imperfezione e di iniziare ad amarci così come siamo. Di conseguenza riusciremo anche a lasciarci amare dagli altri, e dalla scelta di amare noi stessi nelle nostre fragilità ne nascerà un grande senso di amore e di appartenenza anche verso gli altri. Le persone intervistate da Brené Brown credevano addirittura che quello che le rendeva belle persone era proprio la loro fragilità, la loro vulnerabilità. Solo se sapremo accettare la nostra fragilità potremo veramente essere felici. La vulnerabilità preme dentro di noi e noi dobbiamo accettarla, dobbiamo sentirla profondamente nostra e dobbiamo volerci bene così come siamo, accettando le nostre imperfezioni. Ricordi il pensiero di prima che ci rovina tante volte l'esistenza, nel pensare che non siamo abbastanza? Basta, mettilo da parte. Tu sei abbastanza. Smetti di desiderare la perfezione. Smetti di dover dimostrare agli altri che sei perfetto. Chi vuol dimostrare a tutti i costi di essere perfetto e non riesce ad accogliere la sua imperfezione, difficilmente riuscirà ad accogliere l'amore degli altri. Anche perché, che cos'è l'amore in fondo se non l'accoglienza e la custodia delle nostre imperfezioni, delle nostre fragilità? Pensaci, se tu stai bene con quella persona, con quell'amico, con quel familiare, è perché senti che con lui o con lei puoi essere finalmente te stesso, puoi mostrarti senza veli, puoi far vedere all'altra persona anche le tue imperfezioni. E questo è fonte di una grande pace, di una grande serenità. L'amore è custodia della fragilità dell'altra. L'esperienza dell'amore, anche dell'amore di Dio, è l'esperienza del sentir finalmente di non dover dimostrare niente a nessuno, che andiamo bene così, che possiamo essere amati così come siamo. Guarda la tua fragilità. Amala, lascia che le persone più vicine a te possano vederla e possano amarla. E lasciati guardare anche da Dio che ti ama così come sei, proprio adesso, nella tua fragilità e vulnerabilità, nelle tue imperfezioni. Inizia a farlo anche tu, da subito.